Salva Danaio di Deborah Rosciani. Fortuna che al di là del vetro abbiamo un po' di ilarità da parte dei nostri tecnici, che non ci fanno mai mancare l'allegria, i sorrisi ci fanno andare in onda più volentieri anche in queste giornate che per la verità sono un po' difficili da raccontare. E oggi, contrariamente, intanto buongiorno da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. Contrariamente a quanto vi avevo anticipato ieri, la nostra intenzione era quella di ritornare sugli argomenti tradizionali di Salva Danaio, gli argomenti di servizio. Avremmo voluto parlare di mutui oggi perché è rafforzata questa difficoltà per molte famiglie di accedere al credito in questo momento. Ma siccome la colpa di questo è anche della crisi finanziaria in corso e siccome l'evoluzione delle ultime ore comincia ad essere un po' preoccupante, noi abbiamo voluto ritornare sui mercati finanziari per cercare di capire, attraverso un pool di esperti che abbiamo messo insieme nel giro degli ultimi 20 minuti appunto, come mai il mercato reagisce in maniera così negativa alle promesse politiche fatte ieri da Silvio Berlusconi al capo dello Stato. Come sapete, ieri la giornata politica è stata decisamente convulsa, l'abbiamo seguita in diretta dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del rendiconto generale dello Stato, che ha avuto Silvia libera ma non con la maggioranza assoluta che Silvio Berlusconi auspicava. Ieri appunto preso atto di questa ovviamente difficoltà politica, il Presidente del Consiglio ha avuto il colloquio fra le 18.30 e le 19.30 con il Capo dello Stato, colloquio che si è concluso con la promessa di rassegnare le dimissioni dopo l'approvazione della legge di stabilità. E allora questa mattina, di fronte a questo, appunto ci si aspettava quantomeno, non dico dei brindisi in borsa, non dico dei brindisi sul mercato obbligazionario da parte degli investitori internazionali, ma quantomeno un po' di ritorno alla calma. Invece tutto questo non è bastato e questa mattina stiamo rivedendo di nuovo una giornata brutta, perché la borsa, che era partita bene, guadagnava in avvio l'1,20%, ha nel corso, nel giro di un'ora e mezza, a partire dalle 10, drasticamente cambiato direzione. Adesso il FTSE MIB perde il 4,27%, la giornata di Milano condiziona tutto il resto d'Europa, Parigi perde il 2,33%, Francoforte il 2,60%, Londra l'1,54%, scende l'euro a 1,3656. Io per evitare di disturbare molti ascoltatori che a volte sono un po' indispettiti dall'utilizzo di un gergo finanziario, di aggettivi e terminologia un po' esagerata per raccontare le cose, cercherò di essere il più neutrale possibile, vi racconto le cifre e i numeri, poi magari i commenti più articolati e dettagliati li lasceremo ai nostri esperti. Comunque queste sono le cifre che stamattina si presentano sul mercato, ma il termometro che più ossessivamente guardiamo da qualche settimana a questa parte è quello sul mercato obbligazionario. Guardiamo lo spread, guardiamo i rendimenti dei titoli di Stato e il mercato stamattina ha decretato questo: lo spread è volato oltre i 550 punti base, la soglia dei 500 punti è stata toccata ieri proprio in concomitanza del colloquio fra Berlusconi e Napolitano, quindi segno che il mercato chiedeva qualcosa di preciso che evidentemente non è arrivato. Cosa è successo sui titoli di Stato? Allora, il primo segnale è arrivato alle 10 quando appunto lo spread ha superato stabilmente 500 punti. Lo spread è il divario, lo ribadisco ancora per chi non avesse appreso pienamente il significato appunto di questo termine, è il divario del rendimento fra i titoli decennali italiani e i cugini tedeschi. Questo divario si sta allargando dalla scorsa estate e adesso appunto ha toccato e superato i 500 punti, è successo ieri pomeriggio. Un altro segnale è arrivato alle 10:15 quando il tasso di rendimento del buono poliennale a 5 anni ha sfondato il 7%. Alle 10:34 questa soglia è stata superata dal titolo a 2 anni. Alle 11:08 io vi leggo la cronologia delle agenzie di questa mattina, l'abbiamo vista anche noi però che abbiamo una piattaforma live sui mercati. Alle 11:08 anche il BTP a 10 anni ha superato il 7% e vi dico che adesso il titolo decennale ha un rendimento del 7,42%. Allora, queste sono le cifre, io non voglio commentare altro, commenterò questa situazione delle ultime ore, degli ultimi minuti, con, li ringrazio per avermi dato nell'immediato la loro disponibilità, Antonio Tognoli, vicepresidente di IntegraSim, buongiorno. Buongiorno. Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati, buongiorno a lei. Buongiorno. E Gianni Bizzarri, presidente di Banca Ifigest, buona giornata, si può dire Bizzarri? Buongiorno, sì. Allora, ma sì, facciamoci anche un sorriso. Allora, ieri ci siamo soffermati a lungo nel corso della nostra trasmissione. Io, tra l'altro, ricordo che gli ascoltatori possono intervenire questa mattina chiamandoci all'800 24 00 24, scrivendoci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci siamo soffermati a lungo nella puntata di ieri sulla relazione fra politica e mercato, che si è molto ristretta negli ultimi tempi e adesso si guarda quasi esclusivamente alle decisioni che vengono prese da Bruxelles a Roma nelle altre capitali europee per ripristinare l'ordine nei conti pubblici generali. Il grande osservato speciale delle ultime settimane d'Italia, lo abbiamo detto, ha ricevuto anche questa sorta di commissariamento dal Fondo Monetario Internazionale. Inizia oggi a Roma la missione tecnica dell'Unione Europea, della Banca Centrale Europea, appunto per verificare il rispetto degli impegni presi in sede europea. C'è il famoso questionario che il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn ha inviato a Tremonti con 39 domande molto precise, alle quali entro venerdì si deve dare una risposta. Chissà che le rassicurazioni sul mercato non arrivino con le risposte precise a queste 39 domande. Potrete anche divertirvi a leggerle questa mattina su tutti quanti i giornali che le pubblicano appunto in maniera piuttosto dettagliata. Detto questo, prima di commentare la situazione appunto da qui in prospettiva, andiamo al contingente, a quello che accade stamane. Chiedo subito una riflessione ai nostri ospiti per capire perché il mercato non si è accontentato di quello che è successo ieri a Roma. Antonio Tognoli, comincio con lei, che ha un focus orientato soprattutto al mercato azionario. Perché stamattina Piazza Affari decreta un meno 4% alle decisioni, appunto agli impegni presi da Berlusconi? Per due tra le tante motivazioni fondamentali. La prima è che ancora una volta, al di là della certezza Berlusconi mi dimetto, in realtà c'è un'incertezza sul che fare dopo. Allora ciascuno tenta di tirare un po' acqua al suo mulino, la sinistra la tira su, la Lega la tira su, il PDL la tira su, ma in realtà al di là delle dimissioni non c'è una certezza che dà appunto qualcosa di concreto ai mercati. Questo credo sia un po' la prima motivazione. La seconda è che, e da qui credo dipenda anche il fatto che ci siano venuti a trovare da Bruxelles, e ci dicono: ma signori, è 30/40 anni che dite è la lotta all'evasione e che fate sostanzialmente le stesse manovre. Se sono le stesse, evidentemente qualsiasi governo le abbia fatte, vuol dire che quella precedente non ha funzionato. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? Veniamo a controllare. Ma questo veniamo a controllare ancora una volta crea incertezza, perché è chiaro che se non siete in grado di fare le manovre che mi dite di dover fare per rientrare, allora stavolta io ti alzo lo spread, ed evidentemente questo poi gioca a sfavore sia sul comparto azionario e ovviamente sul comparto obbligazionario. Allora, comincio già a leggere. Io immaginavo che ne sarebbero arrivati così tanti, alcuni messaggi, così come vedo già i centralini prendere fuoco questa mattina. Non ci capita sempre a Salvadanaio, in genere siete in tanti ma siete più tranquilli, segno che invece anche se magari molte famiglie sono alle prese con altri problemi e non sono per niente appassionate alle vicissitudini dello spread, vi vedo invece molto agguerriti questa mattina, e chiaramente in molti sono pronti ad esprimere le loro considerazioni, soprattutto ancora una volta sulla relazione tra politica e mercato. Allora, le borse non hanno apprezzato le dimissioni a termine, ci scrive Pierpaolo, infatti questo è quello che sostanzialmente è successo, avrebbe dovuto dimettersi subito, ma quanto ci costa questo governo, Pierpaolo? Adesso magari faremo fare qualche conteggio ai nostri ospiti, ma è un esercizio che ci appassiona poco, per la verità. Non possiamo più permetterci Berlusconi al governo. Molti ovviamente commenti di natura politica, però insomma di fatto un po' adesso poi possiamo dipingerla come la vogliamo. Questo è quanto stamattina viene decretato un po' in termini generali. Un altro ascoltatore dice: era evidente che Berlusconi non c'entrava nulla. Non ci sembra così, ma detto questo andiamo alla giornata dello spread. Jacopo Ceccatelli, chiedo a lei, che invece so che ha un focus un po' più attento sul mercato obbligazionario. Peraltro vi volevo anche leggere poco fa il resoconto di un collega dell'agenzia Radio Core, Claudio Celio, che appunto osserva molto attentamente attraverso l'aiuto degli operatori delle sale operative quello che accade sul mercato. Il mercato dei titoli di Stato italiani è praticamente fermo, non ci sono più prezzi sulla parte breve né su quella lunga lunga della curva, impasse dovuta alla mancanza di incontro tra domanda ed offerta. Lo riferiscono appunto diversi trader, secondo cui nelle ultime quotazioni tutte le scadenze da un anno fino a 10 anni erano appunto sopra il 7%, come vi dicevo prima. Il bot annuale, che peraltro sarà offerto domani in asta, mostrava un rendimento del 7%. Ceccatelli ci spiega che cosa vuol dire quando una scadenza così breve ha un rendimento che equivale a quella del titolo decennale, fenomeno che per la verità si stava già manifestando e che stamattina è conclamato in maniera così evidente. Ah, sì, è un fenomeno abbastanza non frequente ma conosciuto nel mercato obbligazionario, si chiama inversione della curva del credito. Praticamente gli investitori non smettono di ragionare in termini di rendimento e cominciano a ragionare in termini di prezzo di prezzo, diciamo così, di recupero. È chiaro che nel momento in cui un emittente comincia a dimostrare, non dico che sia questo il caso dell'Italia, ma in generale un emittente comincia a dimostrare la possibilità di una ristrutturazione del debito, a quel punto si appiattisce il discorso a livello di prezzo e poniamo tutti devono valere 70, è chiaro che più breve è la scadenza, più alto è il rendimento, perché a 70 un titolo a un anno rende moltissimo, un titolo a 30 anni rende molto poco. Quindi è un segnale molto preoccupante, perché vuol dire che gli investitori, il mercato in generale, sta cominciando a ragionare in questo senso, il che è molto preoccupante. Volevo aggiungere un aspetto tecnico che stamattina credo abbia contribuito a questa situazione, e cioè che la London Clearing House, cioè l'organismo di regolamento, se vogliamo, la Consob inglese? È una sorta di monte titoli inglese, attraverso la quale però una sorta di cassa di compensazione attraverso la quale transitano moltissimi titoli di Stato italiani, anche di banche italiane, ha deciso di aumentare i margini di garanzia. Cosa vuol dire? Che i titoli italiani siano molto rischiosi da scambiare e di conseguenza a oggi, rispetto a ieri, ha aumentato del 5% i margini. Vuol dire che in pratica se io consegno a questa London Clearing House 10 milioni di BTP, prima mi bastava avere presso questa entità circa 600 mila euro di denaro a garanzia che ovviamente lo scambio sarebbe stato effettuato e non ci sarebbero stati problemi, oggi ne chiede quasi il doppio, ne chiede circa 1,2 milioni, quindi il 12% sul nominale, e di conseguenza questo ha dei risvolti tecnici che sono difficili da capire ma molto significativi, quindi non escluderei che ci sia anche un aspetto tecnico di questo tipo. Allora chiedo un attimino di pazienza a Gianni Bizzarri, perché devo già fare la prima pausa, per cui onde evitare di fargli fare un ragionamento di 12 secondi io lo traslo nella seconda parte di Salva Danaio, per cui gli farò fare un ragionamento un po' più articolato. Nel frattempo saluto anche Luca, l'ascoltatore di Rimini, che ci scrive: voi di Radio 24 sareste da arrestare tutti, ci avete detto per settimane che le dimissioni di Berlusconi avrebbero ridotto lo spread, infatti si è visto. Io veramente, Luca, vorrei fare un sondaggio fra tutti i colleghi che davano indicazioni di questo tipo. Noi abbiamo semplicemente riportato, non mi stancherò mai di dirlo e di difenderci anche un po', però capisco anche che effettivamente come vengono dette le cose in questo periodo urtano la sensibilità di molti. Abbiamo semplicemente detto che il mercato stava chiedendo determinate cose che non sono arrivate ieri pomeriggio, perché questo è un dato oggettivo, va riconosciuto, e il mercato questa mattina lo ribadisce di nuovo, per cui non sono parole, io perlomeno mi impegno sempre molto a non, a meno che non ci siano degli argomenti che mi appassionano particolarmente, a non esprimere la mia posizione proprio per non condizionare, perché la nostra è una cassa di risonanza enorme. Questa è una cosa che è successa anche nella trasmissione di ieri, pertanto Luca, se lei pensa che lo abbiamo detto noi, mi dispiace, noi ci facciamo portatori appunto di notizie che vediamo, che leggiamo, abbiamo la possibilità magari grazie al nostro lavoro di approfondire determinati aspetti, cerchiamo di riportarveli nella maniera più chiara possibile. Salva Danaio, ennesimo snervante, estenuante monitoraggio dell'andamento dei mercati alla luce delle novità politiche che sono arrivate ieri, che non piacciono al mercato per niente. Poi ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma di fatto le dimissioni a termine del Presidente del Consiglio, la possibilità paventata di andare ad elezioni e non ad un governo tecnico, elezioni che si potrebbero svolgere a febbraio, il mercato non vuole tutto questo tempo, oggi significano meno 4,27% sul FTSE MIB a Piazza Affari, un vabbè, non vi piace il termine crollo? Come lo definireste? Un meno 11% e mezzo per l'automatica, meno 10% per Mediaset, meno 8 punti per il Banco Popolare, meno 6 per la Popolare dell'Emilia Romagna, Ubibanca, Intesa San Paolo, Fiat, meno 5 punti e mezzo per Unicredit, Enel e quant'altro. Come lo definiamo? Lo spread tra BTP e Bund a 568 punti base, il rendimento del titolo decennale al 7,42%, oltre il 7% i rendimenti per le altre scadenze più brevi. C'è stata l'inversione della curva del credito, come ci ha spiegato prima Jacopo Ceccatelli, tra gli nostri ospiti di oggi, insieme ad Antonio Tognoli e a Gianni Bizzarri, presidente di Banca IFIGEST, che risaluto di nuovo, non ho fatto in tempo a sentirlo nella prima parte della trasmissione. Adesso andremo anche alle osservazioni e alle domande dei nostri ascoltatori. Gli chiedo un commento, Bizzarri, su quello che ha visto negli ultimi minuti. Un ascoltatore ci dice: qualche giorno fa io vi avevo scritto questo messaggio, che cosa sarebbe successo se i nostri spread fossero arrivati a quota 500. Ci ridevamo anche un po' su, nel senso che avevamo anche un po' questo atteggiamento scaramantico, se vogliamo, perché uno scenario del genere noi non lo volevamo neanche prendere in considerazione. Detto fatto, si è materializzato nel giro di 3 giorni. Bizzarri, voi state ricevendo molte, non so, telefonate di vostri clienti stamattina che vi chiedono chiarimenti, spiegazioni su quello che sta accadendo e soprattutto vi chiedono indicazioni su ciò che devono fare? Ma innanzitutto volevo cercare di mettere un pochino di chiarezza in questa questione, in quanto sta succedendo, almeno dal nostro punto di vista. La sensazione è che dopo una fase, diciamo, degli annunci, e non solamente una fase degli annunci italiani, ma anche una fase degli annunci europei, una fase degli annunci del G20, e adesso siamo passati a una seconda fase, si vuole chiamare il bluff dell'Europa, cioè il problema dell'Italia è un problema a questo punto di tenuta dell'Europa, è un problema di contagio che, se dovesse durare, indubbiamente andrebbe a toccare anche la Spagna nei prossimi giorni, piuttosto che l'Irlanda, che erano rimaste più o meno esenti negli ultimi tempi da attacchi speculativi, e quindi si vuole chiamare questo bluff. E quindi questo bluff è: l'Europa c'è oppure ognuno deve cavarsela da solo. E quindi è molto importante vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quello che succederà a livello europeo. Detto questo, invece, sulla situazione di questa mattina, lei come la considera questa reazione del mercato? Voleva qualcosa di più rispetto alle indicazioni politiche che sono emerse ieri da Roma, dal colloquio tra Berlusconi e il Quirinale? Un mercato che voleva dimissioni subito, e questo quanto decreta oggi la borsa e soprattutto il segmento obbligazionario dei mercati? Ma io credo che sia abbastanza evidente che purtroppo la politica può far poco in questo momento, sia in Italia che in altri singoli paesi. Potrebbe fare qualcosa a livello europeo. A questo punto la parola è ai mercati, e quindi saranno i mercati che decideranno nei prossimi giorni quelli che saranno i valori appropriati per i diversi titoli di Stato, per le diverse azioni. Però il problema, ripeto, non è un problema solamente italiano, è un problema ormai europeo, ed essendo l'Europa un conglomerato di consumatori importanti, è un problema mondiale. Quindi nei prossimi giorni vedremo se dovremo cavarcela da soli esclusivamente, oppure se ci sarà uno spirito europeo di aiuto. Ecco, tra l'altro, a proposito di spirito di aiuto, Ceccatelli, voglio tornare da lei per un attimo. Tra l'altro lo sentivo ieri anche, non mi sono fatta mancare niente, anche quando esco dal lavoro generalmente cerco di non continuare a seguire trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si parli di tutto questo. Ieri invece nel tranello ci sono caduta anch'io guardando Ballarò, sentivo appunto i commenti relativamente al fatto che se si fosse accettato l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale che è stato proposto al G20 di Cannes, probabilmente forse anche questo sì avrebbe un po' aiutato a calmare le acque in questi giorni, perché tutti quei paesi che l'hanno chiesto e ottenuto negli ultimi anni perché stavano affrontando delle crisi finanziarie preoccupanti, è successo alla Turchia, all'Argentina, alla Russia, poi si sono rimessi in carreggiata in tempi abbastanza rapidi, e non è niente di scandaloso accettare una linea di credito che credo fosse intorno ai 40 miliardi di euro, quelli appunto proposti da Christine Lagarde e rivolti al nostro paese. Ceccatelli, secondo lei il mercato è rimasto disturbato anche da questo? Ma sicuramente è rimasto disturbato da tutta una serie di notizie smentite, contraddizioni, anche comportamenti non lineari che hanno avuto le autorità italiane. Io credo che sinceramente il fatto di essere stati messi sotto tutela dal Fondo Monetario Internazionale, senza peraltro ricevere la linea di credito, in un certo senso abbia un po' conclamato la situazione di difficoltà, quindi non è stata una cosa positiva. Il fatto di accettare gli aiuti sicuramente dal punto di vista, diciamo, della gestione poi di cassa del nostro paese può essere visto positivamente, però ecco, rispetto a quello che è stato detto a Ballarò, una cosa importante che non è stata detta è che l'Italia non ha la possibilità di svalutare la sua valuta. E gran parte delle interventi del Fondo Monetario, che sono stati interventi fortemente di rigore e di austerità, sono stati di solito accompagnati da una forte svalutazione. Questo noi non lo possiamo fare, e questo a mio avviso è il grosso punto interrogativo che abbiamo davanti. Sì. No, ecco, dicevo che poi nel breve sicuramente io credo che in ogni caso purtroppo c'è un problema di credibilità del nostro sistema, diciamo, dirigente, politico, e quindi io credo che nel breve l'unica cosa che può fare la politica è quella di mettersi da parte per qualche tempo e quindi dare un mandato. Uno spazio ad un governo tecnico. Io credo che questa sia l'unica cosa che può aiutare nel breve, che può fare l'Italia. Antonio Tognoli è d'accordo con questa visione? Se ieri dall'incontro con Napolitano fossero uscite ancora, lo ribadisco, le dimissioni subito, ma non perché da qua vuole venire fuori questo messaggio, è così un po', voglio solamente fare un sondaggio fra le percezioni che ci sono, perché di sicuro non abbiamo l'autorevolezza per dare dei suggerimenti politici a nessuno. Tognoli, se appunto ci fosse stata subito una dichiarazione di disponibilità a farsi da parte immediatamente, subito un'indicazione di una possibilità di inizio di consultazioni per dare un mandato ad una figura tecnica che possa guidare il paese nei prossimi mesi, ci sarebbe stata una reazione diversa oggi? Bah, probabilmente sì, nel senso che si sarebbe fatta chiarezza, ma voglio dire, non solo poi qui magari mi metto i panni, voglio dire, levo la giacchetta dell'analista, però voglio dire, il discorso dell'analista finanziario, per fare l'analista politico, ma il discorso è, i mercati richiedono chiarezza, la chiarezza vuol dire o mi dimetto subito o comunque mi dimetto non appena viene approvata la legge di cui si sarà in discussione, e a quel punto apro immediatamente un governo tecnico, ma il problema è che non lo deve dire una sola parte politica, devono essere tutti d'accordo. È qui il punto. Allora, se così fosse, oggi sarebbe andata diversa. Se chiaramente da parte di sinistra si dice sì, vabbè, ma io non ho ancora visto la legge, come faccio a approvarla? La Lega ama io, cioè, ovviamente, come dicevo prima, tirando acqua al proprio mulino si crea incertezza. Quindi la certezza vuol dire mi dimetto o prima o dopo, sono già d'accordo fin da ora a un governo presieduto da esponente importante, ovviamente il nome che circola per la maggiore è quello di Mario Monti. Sì. Esatto, e da questo punto di vista tutti sono d'accordo per fare A, B, C, D. A questo punto il mercato sarebbe andato in modo diverso. Allora, certo che dirlo, pur non essendosi concretizzata questa circostanza, è facile, chissà che non sarebbero andate poi diversamente le cose, magari un po' come è successo alla Grecia nelle ultime settimane, pur facendo tutto quello che là da Bruxelles chiedevano, in realtà non bastava mai e ogni giorno si alzava il tiro, chissà che non si verifichi anche questo, ma non lo so. Allora, faccio fare magari, che ne dici Paolo, la domanda a Carlo da Milano, perché sta aspettando da un po' il nostro ascoltatore, e poi anche Mario da Genova, sentiremo dopo, e Gianni da Fermo, così da lasciare concludere i nostri ascoltatori e le risposte dei nostri appunto ospiti, per capire un po', insomma, quali orientamenti si possono dare in una fase un po' complessa come quella che si è maturata negli ultimi giorni. Carlo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io voglio essere molto rapido. Volevo parlare sulla disaffezione su quelli che sono i titoli di Stato nostri. Allora, io avevo 20.000 euro di VOT. Poi è arrivato il super bollo sul deposito dei titoli che mi rubava, e sottolineo rubava, tutto l'interesse. La domanda è questa: perché oggi io devo sottoscrivere VOT BTP per non poi non vedere nulla? Quell'imprenditore che ha fatto la pubblicità, ha speso un sacco di soldi sul giornale, che dice di comprarsi 5-10.000 euro di titoli di Stato, ma lo sa che non vedrà più niente di interesse perché gli mangeranno tutto? Grazie. Carlo, la ringrazio, non poteva essere più chiaro di così. Tra l'altro il superbono non dovrebbe, se lei aveva, adesso magari ha un deposito titoli un po' più consistente, se avesse solamente un conto titoli con 20.000 euro di obbligazioni governative, non credo che la nuova tassazione andrà ad intaccare anche il suo patrimonio. Detto questo, abbiamo lungamente ieri argomentato sulla l'iniziativa di Orgoglio Nazionale presa da questo imprenditore toscano, che per la verità è stata sposata anche da molti altri imprenditori, anche dal ministro della gioventù Giorgia Meloni. Oggi su tutti i giornali c'è questa notizia, che anche lei ha comprato appunto titoli di Stato. Detto questo, ognuno può fare quel che vuole, l'importante è che abbia la chiara percezione che è uno strumento diventato un po' più rischioso rispetto al passato. Adesso ci sono delle dinamiche diverse che interagiscono e che ne caratterizzano appunto la dinamica del rendimento e quant'altro, pertanto ognuno può fare quello che vuole, l'importante è che si sappia quello che si fa. Carlo, oltre a Carlo da Milano, vorrei sentire anche Mario da Genova. Mario, buongiorno. Salve, buon dia a tutti. Sono in linea? Sì, sì, certo. Allora, spero di non essere contorto nel mio ragionamento. Cerchi di essere liscio, allora. Speriamo. Allora, i titoli di Stato italiani che adesso vengono portati sul mercato secondario, sì, sono titoli che sono stati venduti dallo Stato italiano ad una certa data con un certo interesse. Sì. Quindi l'interesse è stato stabilito al momento dell'asta. Uh-huh. È corretto? Sì. I rendimenti che adesso stanno aumentando è perché coloro che detengono questi titoli li stanno praticamente svendendo. Non è lo Stato italiano che poi deve rimborsare un interesse più alto su questi titoli. Sì, quindi volevo... è corretto questo qua. Se adesso ci sono dei bot, vi faccio un esempio di questo titolo di cui avete parlato adesso, a 12 mesi, il cui valore nominale era 100, adesso è sceso a 70, ad 80, perché il Tesoro, la Banca d'Italia non li ricompra? In questo modo già l'Italia recupera un 20%, perché invece di dover rimborsare a scadenza 100 si trova a riacquistare, cioè invece di dover rimborsare 100 riacquista adesso già ad 80. Mamma mia Mario, allora ci propone uno scenario di non di fantasia, poi magari potrebbe anche essere una ottima idea quella che lei propone. Di fatto al momento l'unico attore istituzionale che sta comprando è la Banca Centrale Europea, anche se preferisce le scadenze un po' più lunghe rispetto a quelle che lei ha indicato, il titolo di Stato appunto, il bot semplice ad un anno. Però non so chi è che vuole intervenire su questa cosa. Ceccatelli vuole dare appunto un commento. Da un punto di vista concettuale è corretta il ragionamento, il problema è che bisogna avere le risorse per comprare i titoli sul mercato secondario. Ripeto, l'Italia non può battere moneta perché non ha più questa facoltà, e quindi le risorse non ce l'ha in questo momento. Dovrebbe andare sul mercato e emettere nuovi titoli per farsi dare i soldi per comprare i vecchi. Ma è ovvio che emetterebbe. Tra l'altro sono anche operazioni che sono un po' avvenute negli scorsi mesi. Il Tesoro italiano in realtà qualche operazione di questo tipo l'ha fatta, no? Modificando le scadenze, se non mi ricordo male, Ceccatelli. Poi non Operazioni, voglio dire, si chiamano di liability management. Sono operazioni che vengono fatte da chiunque abbia del debito, però ripeto, per farli in maniera massiccia in grado di stabilizzare il mercato un po' netta, bisogna avere tante risorse finanziarie. In questo momento l'Italia i soldi non li presta nessuno se non va in asta. Se va in asta paga degli interessi altissimi, quindi è vero che da un lato avrebbe il guadagno, diciamo così, di ricomprarsi a 70 quello che ha venduto a 100, ma dall'altro si finanzierebbe ai tassi di oggi, quindi 7,5. Quindi sarebbe una sorta di partita di giro, ecco. Purtroppo non si può fare. Gianni Bizzarri, volevo tornare da lei, presidente di Banca Ifigest, per invece tornare alla riflessione del primo ascoltatore, di Carlo da Milano, che diceva che insomma, oltre al fatto che ha un portafoglio di titoli che in questo momento sta viaggiando sulle montagne russe, 20.000 euro di botte, oltre a questo appunto il suo investimento è penalizzato anche dall'inasprimento della tassazione, della quale abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane, problema che adesso credo che nella graduatoria vada a finire al quarto, il quinto, il sesto posto, non lo so, ma secondo lei è un problema che accomuna molti anche dei suoi clienti? Il problema in questo momento è se detenere un bot o se detenere il bund o se detenere un treasury americano. Allora, il bot almeno dà un tasso di interesse interessante, e visto che il criterio della residenza in Italia è quello che conta da un punto di vista fiscale, secondo me è oggi uno dei migliori investimenti che ci sono, perché avendo lo Stato capacità impositiva, il primo metodo, diciamo, per rientrare di quello che manca è aumentare le tasse. Quindi per una persona che è residente in Italia non è la stessa cosa che per un residente estero, quindi se un residente estero può avere effettivamente una convenienza nella scelta fra bund e titoli di Stato italiani, per un residente italiano il rischio è che si ritrova poi un bund, riceve una tassa patrimoniale oppure un prelievo di qualsiasi tipo e non ha neanche visto dei tassi di interesse interessanti, invece avendo dei titoli di Stato italiani almeno in questo momento potrebbe beneficiare di tassi di interesse un po' elevati. Più appetitosi. Quindi bisogna sempre tenere presente che lo Stato ha dei mezzi, diciamo, convenzionali di rifinanziarsi perché ha potere impositivo e ritornando invece al discorso del secondo ascoltatore, ha anche mezzi non convenzionali. I mezzi non convenzionali potrebbero essere vari, ma diciamo sono quelli che potrebbero venire dopo l'utilizzo dei metodi convenzionali, che saranno quelli che saranno probabilmente utilizzati nei prossimi mesi. E intanto Adolfo da Campobasso ci scrive: rilanciate la proposta che il debito venga preso in carico dagli italiani. Adolfo, noi più che raccontarla in lungo e largo non sappiamo più che cos'altro fare. Io onestamente non voglio sposare nessun tipo di campagna, né questa né quelle di altro tipo, né di quelle che invece dai titoli italiani fuggono enormemente, per cui insomma mi limito a raccontare quello che succede, mi limito a raccontare ciò che si manifesta sul mercato frutto dell'atteggiamento appunto dei grandi investitori internazionali, perché credo che per quanto gli italiani possano fare, non è che possano poi calmare più che altro tanto le acque, ecco, possono dare un segnale sicuramente interessante, però non credo che possano spostare enormemente nello spread, nel rendimento appunto dei titoli di cui stiamo parlando. L'ultima domanda la giro ad Antonio Tognoli, per chi osserva invece il mercato azionario. Alcuni ascoltatori, Tognoli, ci chiedono come mai c'è questo meno 10% su Mediaset, meno 12% sull'automatica, sulle banche, beh, abbiamo detto tutto quanto, devono ricapitalizzarsi, hanno tanti titoli di Stato in portafogli e con questo rendimento alle stelle devono appunto riequilibrare evidentemente il loro conto economico, ma soprattutto su questi due casi più eclatanti, queste perdite a due cifre su questi due titoli. Beh, sulle banche direi ovviamente quello noto, avendo titoli di Stato in portafoglio ci sono delle minusvalenze potenziali. In portafoglio stesso. E quindi il mercato ricalcola appunto anche la quotazione. Per quanto riguarda gli altri titoli, stanno scendendo, quelli che citavi, stanno scendendo, ma non solo questi, anche tra gli altri minori, quelli che sono più presenti nei portafogli degli azionisti, degli investitori esteri. Tant'è vero che se uno avesse modo di parlare con gli investitori esteri, e noi lo facciamo quotidianamente, ormai da un po' di tempo ti dicono per il momento Italia non ne voglio neanche sentir parlare. Chiaro che nel momento in cui succede che lo spread aumenta, succede quello che è successo ieri, magari non solo si vendono i titoli ma addirittura vanno corti, cioè vendono i titoli che non hanno per poi comprarli a prezzo più basso, quindi sono proprio quelli più presenti nei portafogli degli investitori esteri. Allora, la nostra trasmissione è terminata, abbiamo cercato così di fare un po' di cronaca rispetto agli avvenimenti delle ultime ore. Un ascoltatore ci scrive: sarò pazzo ma oggi ho comprato BTP scadenza 2012, ma non è pazzo, se lei ha fatto questo investimento nella piena consapevolezza del movimento che questo titolo può avere in relazione anche alle vicende politiche italiane ed internazionali, ha fatto una scelta assolutamente consapevole, nessuno è pazzo, a patto che le scelte le faccia appunto in maniera con un'assunzione appunto totale di responsabilità e consapevolezza, per cui nessun tipo di giudizio. Se è soddisfatto così, buon per lei. Grazie ad Antonio Tognoli, Jacopo Ceccatelli, Gianni Bizzarri. Salvadanaio torna domani, speriamo di cambiare argomento, ma insomma non ho tanto la sensazione, forse anche domani dovremo mantenere il nostro riflettore puntato sul mercato. A tutti buona giornata.